24 mattino di Alessandro Milan. Sono le 7:30 minuti in punto, cari ascoltatori, eccoci in diretta fino alle 9. Di che parliamo oggi? Beh, parliamo del dopo elezioni, d'altronde i giornali sono dedicati un po' tutto a questo, alle analisi del voto delle regionali, ne parliamo anche noi nel nostro sondaggio e parliamo nello specifico della vittoria molto netta del movimento di Beppe Grillo. Ieri Bersani ha detto: votare Beppe Grillo è un atto di autodistruzione, sostanzialmente, un cupio di solvi. Siete d'accordo? È un atto di autodistruzione votare Beppe Grillo? Dovete votare su radio24.it, è molto semplice, nella home page ci trovate in bianco o nero e votate lì, poi ne parleremo alle 8:30. E al dopo elezioni è dedicata anche gran parte dei giornali, delle analisi che troviamo sui quotidiani, andiamo a vedere subito che cosa ci propongono. In primo piano. Allora, la parola chiave è riforme. Ora tutti vogliono le riforme, ora è il momento delle riforme, adesso mai più. E lo si scopre anche dai titoli dei giornali, il Sole 24 Ore, Maroni, ora il federalismo fiscale, intervista al ministro dell'interno, il Sole 24 Ore. Fisco, ecco i punti della riforma per il Corriere della Sera. La Repubblica, Berlusconi, cambio, giustizia e fisco. La Stampa, Berlusconi e adesso le riforme, per l'appunto. Il Giornale, ora Silvio vada giù duro. Berlusconi, ora le riforme per il Messaggero. Libero, forza Silvio, ora o mai più. Ecco, ve l'avevo detto, ora o mai più. Per l'Unità invece, in cammino, altri 3 anni, Berlusconi accelera sulle riforme. Il giorno dopo Bersani non è una sconfitta, poi ci sono delle interviste. Insomma, le riforme, questa è la parola chiave. Per il Corriere della Sera il Cavaliere sente Fini, si sono sentiti Fini e Berlusconi, vediamoci, dobbiamo stabilire la priorità delle riforme, e subito Berlusconi avrebbe detto: si parte con la giustizia. Questa è la risposta del Premier. Come detto, appunto, è il momento, sembra, nel quale anche il capo dello Stato Napolitano ora le riforme condivise. Sembra un po' un refrain, se ne parla da chissà quanto, ma insomma si rilancia su questo tema. E allora voglio partire dall'intervista che Marco Ludovico del Sole 24 Ore ha fatto al ministro dell'interno Maroni. Presidenzialismo solo con il federalismo. Allora, Maroni dice: il presidenzialismo, sul quale batte molto Silvio Berlusconi, va bene, ma prima la riforma fiscale, la riforma federale. Adesso si possono, si devono fare le riforme, insiste e dice anche il ministro dell'interno Maroni, ma al primo posto c'è il federalismo. Lo scenario è cambiato, le vittorie in Piemonte e Veneto sono strategiche, direi decisive, dice Maroni. Però, chiede Ludovico, il PDL punta a introdurre il presidenzialismo. Eccolo qui Maroni: va bene qualunque cosa se passa la riforma federale, cioè tutto viene messo dopo la riforma federale. Si tratti dell'elezione diretta del Premier o del Presidente della Repubblica, la priorità per noi è la revisione della forma di Stato. Più poteri agli organi di governo del territorio, meno a quello centrale. Su Luca Zaia, che lascia il Ministero dell'Agricoltura, la Lega e garanzie di buon governo decideranno Bossi e Berlusconi, ma insomma la sensazione è che la Lega ci terrebbe molto a tenere il Ministro dell'Agricoltura. Come la Lega Palazzo Marino, cioè sindaco di Milano tra un anno, siamo pronti anche per guidare Milano. E infine uno sguardo alla Lega e all'economia, visto che l'economia del nord, in particolare, ha la presenza di numerose fondazioni bancarie, chiede Marco Ludovico: i leghisti sono pronti a entrare in queste fondazioni? Sì, risponde Maroni, ma non si tratta di un'occupazione di poltrone, non ci interessa il manuale Cencelli. In gioco invece dobbiamo mettere l'uso di ingenti risorse non per destinarle ad acquisizioni societarie o speculazioni finanziarie, ma per investire sul territorio. Un esempio concreto ce n'è uno recente. In Lombardia la Fondazione Cariplo, d'accordo con il mio ministero e una provincia che per ora non posso citare, hanno stretto un accordo. La Fondazione acquisterà un bene confiscato necessario alla provincia per fini pubblici e lo darà all'ente che non lo avrebbe potuto comprare. Ecco un esempio concreto di come, secondo Maroni, Le fondazioni bancarie possono essere utili per investire sul territorio, non nelle speculazioni finanziarie, non nelle acquisizioni societarie, ma per dare un contributo sul territorio concreto. Oh, che le riforme siano necessarie, tra l'altro l'ha detto anche il Fondo Monetario Internazionale. Ieri il Fondo ha promosso l'Italia sostanzialmente in questa lettera che l'autorità di Washington con i super ispettori hanno consegnato al ministro dell'economia Tremonti. Lo leggo sempre dal Sole 24 Ore, pagina 13, perché l'Italia ha resistito alle pressioni ai momenti più gravi della crisi. Soprattutto il Fondo Monetario ha sostenuto ha reagito bene il sistema bancario, non c'è stata necessità di utilizzare il 2% del PIL di stimolo fiscale consigliato dallo stesso fondo per uscire dalla crisi, la disoccupazione non è aumentata come negli altri paesi. Insomma, questi punti per cui l'Italia ha retto, secondo l'organismo di Washington. Però il cuore del documento è proprio questo: ora ci vogliono le riforme. Insomma, ce lo chiede anche il Fondo Monetario Internazionale. Per rilanciare ci vogliono le riforme. E tra l'altro Tremonti, oltre alla riforma della giustizia che il Premier vuole come primo punto, oltre alla riforma del federalismo che la Lega, il ministro Maroni ribadisce, vuole in un altro punto, Tremonti dice la riforma delle riforme è la riforma fiscale, che ha ribadito ieri il ministro Tremonti, è un'altra priorità assoluta. Tanto che il Corriere della Sera, pagina 5, delinea anche un po' quella che è il disegno di Tremonti in questo articolo di Stefania Tamburello. In tre formule si esplicita il disegno di Tremonti: dalle persone alle cose, e cioè lo spostamento progressivo del carico dell'IRPEF alle imposte indirette come l'IVA, dal centro alla periferia, cioè il federalismo fiscale, e dal complesso al semplice, cioè la divisione tra fisco e assistenza, il che vuol dire il sostanziale sfoltimento della giungla delle detrazioni troppe e troppo spesso utilizzate per fini assistenziali o sanitari o quant'altro, ma non fiscali. Poi c'è sempre l'obiettivo dell'evasione fiscale, del contrasto all'evasione fiscale, ma c'è anche l'obiettivo, scrive il Corriere, di alleggerire al massimo il compito del contribuente, cioè smitizzare quell'appuntamento annuale col fisco, che per me personalmente è un'angoscia che mi accoglie ogni anno e mi bussa alla porta. Come si può fare questo? Con l'invio a casa della dichiarazione precompilata, senza il rebus delle detrazioni, semplificando al massimo, come si fa in qualche paese del nord Europa. Insomma, sarà una suggestione, un sogno. Il giorno che arriverà, io stapperò una bottiglia di champagne. Questo per quel che riguarda le riforme. C'è molto anche dell'analisi di chi ha vinto e di chi ha perso. Brunetta dice che ha perso e accusa la Lega, abbiamo sentito. Castelli della Lega ha perso a Lecco e non accusa nessuno, anzi accusa se stesso. Uno dei pochi che dice: ho perso, ci ho messo la faccia e ho perso. In un'intervista del Corriere della Sera, se non altro stimabile, Castelli dice: mi sento come il Dennis Conner della politica. Ora uno dice: ma chi è Dennis Conner? Dennis Conner, per chi non è addetto ai lavori, è un velista. È quello skipper che nel 1983 fece perdere per la prima volta agli Stati Uniti l'America's Cup di vela dopo 132 anni di dominio assoluto. Ecco, Castelli dice: mi sento così, come Dennis Hopper, cioè quello che in uno dei feudi leghisti, insomma, Lecco nella Lombardia, proprio poi nel trend delle regionali dove la Lega ha conquistato voti dappertutto, dice: mi ha messo Bossi, mi ha indicato come il vincitore candidato sindaco per rimettere pace in una coalizione che ha fatto solo liti, ho perso, è colpa mia. Castelli ha perso, era candidato sindaco di Lecco, ha vinto il candidato del centro-sinistra Brivio. Tra gli sconfitti non si sente Bersani. Bersani dice: non siamo sconfitti, ha usato anche questa espressione, è come è finita in zona Cesarini un palo a testa tra noi e il PDL, perché dice: sì, hanno guadagnato più regioni rispetto alla partenza, 11-2, ma il PDL ha perso voti, anche noi ne abbiamo persi rispetto alle europee. Insomma, questi calcoli che, insomma, il fatto quotidiano inchioda così, per esempio: con questi qui non vinceremo mai. E c'è la foto di Pierluigi Bersani ed Enrico Letta durante la conferenza stampa. Insomma, ci fa capire che si punta molto duramente, si batte molto duramente contro questo PD. 4 regioni in meno, ma Bersani giura che il PD non ha perso. Leggo sempre dal titolo del Fatto. Ricordate il grido di Nanni Moretti? E, così insomma anche altri giornali, addirittura il Manifesto mette in prima pagina la foto di Bersani, il canto del grillo, Bersani con le mani alzate, sembra che lo stiano quasi arrestando, ma insomma è come dire un Bersani un po' tratto ieri dalla conferenza stampa. In Val di Susa prendono i voti dei Notav e fanno perdere l'Abresso, a Bologna eleggono un emergente passato da Eno Global al V-Day, insomma il terremoto grillino sulla sinistra, e tra poco lo vedremo perché tra le cause Bersani ha proprio detto abbiamo perso il Piemonte. Ieri ce l'ha detto anche Piero Fassino a questi microfoni nel lungo speciale che abbiamo fatto. Abbiamo perso il Piemonte per colpa di Grillo. E Bersani ieri ha detto votare Grillo è un accupio di solvi, cioè un atto di autodistruzione, che poi è il nostro sondaggio. Vi chiediamo se è proprio così. Secondo voi è un'autodistruzione votare Grillo oppure è un voto propositivo per una forza nuova che emerge? Sta di fatto che insomma Bersani non si sente sconfitto, ma Veltroni riemerge, secondo il Corriere a pagina 11, vuole un nuovo partito, strategia fallita, l'esito è devastante, una sola frase riportata, o quelli cambiano linea o rischiamo di grosso. O meglio, ha detto o rischiano di grosso, più che rischiamo. Rischiamo come partito, ma rischiano di grosso quelli. C'è anche la figlia di Veltroni, la primogenita, su Facebook si è sfogata così. Qualcuno, vediamo se si dimette qualcuno prima che mi venga la gastrite. Ma su Facebook si dicono tante cose. Chi è molto duro con il PD è Vendola, il vincitore Vendola fa un'intervista che è l'intervista del giorno, spettacolare, ad Antonello Caporale su Repubblica. D'altronde le interviste bisogna anche saperle fare molto bene, e Caporale lo sa fare. I morti seppelliscono i morti, concentriamoci sui vivi. Inizia così. Ma lei dà già per stecchito Bersani, io penso che siano finiti i partiti. Dice Vendola, consumati, inadeguati, fuori dalle virtù civiche, non voglio più essere scambiato per uno degli esorcisti che tentano di far vivere chi è defunto. Su Bersani non commento i destini personali, penso a quel che dovrà succedere. Insomma, dice Vendola, i partiti sono morti, non c'è futuro per i partiti, ci vogliono le virtù civiche. I partiti, sentite Vendola, Vendola è un po' un poeta, no? Un governatore poeta. Sono aree delimitate da una specie di filo spinato in cui la competizione è sfacciata, ossi di seppia, luoghi pieni di detriti, posti senza anima, i partiti sono fuori dal popolo, oltre la gente, a volte contro di essa, una catena, una rete oligarchica e distante. E poi Vendola dice bisogna recuperare la moralità, la vita sobria, anche umile. Io non ho partecipato a una sola festa e sa che a Bari... Bari è piuttosto generosa nell'offerta, però mi sembrava utile non apparire, devo difendere la mia persona dal rischio di diventare un personaggio, mi produco in periodi di astinenza dalla TV e dal potere. Su Berlusconi, lui è riuscito nel miracolo di separare il concetto della libertà dal lavoro, il lavoro è scomparso, la sinistra non se n'è accorta, lui ha cancellato l'articolo 18 e l'opposizione non si è destata dal torpore. Insomma, Caporale dice il partito che non c'è più. Partito, sente, participio passato, cioè fuggito, sparito, scomparso. Il Partito Democratico, ed ecco qui Vendola è spettacolare, il fuggito democratico. Cioè sentite come parla Vendola, infatti Caporale dice ma questa è poesia pura. Berlusconi lascia solo solitudini e noi che stiamo dall'altra parte non abbiamo strumenti, non capiamo, non agiamo, competiamo, sappiamo unicamente competere tra noi. Insomma, Vendola dice i partiti sono morti. Sapete chi dice i partiti sono morti? Beppe Grillo, che infatti in un'intervista a Peter Gomez sul Fatto dice i partiti sono morti. E attenti, tra un anno avremo 100.000 iscritti, Beppe Grillo rilancia, registro ciò che vedo, è tutto pilotato dagli altri, no? Funziona così, io ti metto lo Iero in Calabria e già so che non prendo un voto se mi dai un pezzo del Veneto, metto De Luca in Campania se mi dai qualcos'altro. Insomma, secondo lui c'è questa grande complottone tra i partiti, no? E gli chiede Peter Gomez, se invece quella del PD fosse solo stupidità, se lo è ancora peggio, se fossero così non avrebbero nemmeno il diritto di gestire un condominio. Lui definisce il suo movimento un movimento wiki, come Wikipedia, cioè quell'enciclopedia dove tutti possono contribuire sulla rete senza sezioni di partito, ma con contatti così tra le persone e ognuno può dire la loro. democrazia partecipativa partita dai social network. Ecco come la definisce Beppe Grillo. Siamo andati da Prodi anni fa, quando era presidente del Consiglio, e gli abbiamo consegnato una cosa che era una sintesi di 8 mesi di dibattito tra 800.000 persone, premi Nobel e idraulici, elettricisti e ingegneri, sui temi come la salute, i trasporti, la borsa, il Telecom, e lui non ha neanche capito di cosa si trattava. Insomma, ci sono tante analisi sui 18 cavalieri anti-Bresso, per esempio, a pagina 9 della Stampa, mette in confronto Mercedes Bresso, che aveva una corazzata elettorale, e 18 giovani, i cosiddetti grillini, gli hanno praticamente rotto le uova nel paniere, tra cui c'è questo Davide Bono, medico, 29 anni, nostro ospite alle 8.30, ve l'annuncio, che dice: incolpare noi della sconfitta della centrosinistra è come un tifoso che incolpa la squadra avversaria perché è in campo. Facciano autocritica, dice Davide Bono, uno che gira solo in bicicletta. Che dice: noi siamo venuti fuori da qualche mese, no, ma è così, abbiamo battuto Mercedes Bresso. E di Beppe Grillo parleremo. È un atto di autodistruzione, come ha detto Bersani, votare Beppe Grillo? Che ne pensate? In primo piano, l'avvocato del diavolo è il titolo di un fondo che trovo sul Foglio. Stiamo parlando e parliamo della Chiesa e delle accuse di pedofilia, degli abusi. È un periodo molto difficile sicuramente per il Vaticano. Chi è l'avvocato del diavolo per il Foglio è Jeffrey Anderson, un avvocato più incline all'accusa che alla difesa. Dal 1983 i suoi occhialetti mughiniani fanno capolino in ogni angolo d'America in cui si mormori che un chierico adesca e molesta laici minorenni. Dal Minnesota rurale ai palazzi di Washington, Anderson si aggira con faldoni vecchia maniera, colmi di prove inconfutabili contro preti, monaci, catechisti, chierichetti, sagrestani, organisti, frati, fraticelli, sospettati di violenze di vario genere. Insomma, chi è questo Jeff Anderson, di cui il Foglio tratteggia sotto il titolo L'avvocato del diavolo il profilo? È colui che anche secondo Repubblica, pagina 18, porteremo il Papa in tribunale. La guerra dei legali delle vittime, anche su Repubblica, appunto. Eccolo qui, Jeff Anderson, l'avvocato anti-abusi. Il trasferimento dei preti pedofili dipende dal Vaticano e dunque porteremo addirittura questo titolo, porteremo il Papa in tribunale, forse è un titolo esagerato, ma insomma vogliono adire le vie legali per cercare di creare il più possibile problemi. Su questo tema c'è un bel editoriale, devo dire. Davide Rondoni, scrittore, cattolico, intellettuale, firma in prima pagina di Avvenire un bel editoriale. Ne vorrei leggere qualche stralcio. Ora, ci han detto di tutto, scrive Rondoni, non faccio la vittima, non è nemmeno ora il caso, ma c'è da dire che noi cattolici collezioniamo ingiurie, non me ne dolgo più di tanto, è un patimento che provoca una strana risorsa di allegria, come se il dolore che duramente colpisce in tutta questa vicenda purificasse, togliesse l'aspro dalle offese che in tanti stanno costruendoci sopra. Ora, avete aggiunto questa ingiuria. Lo fate attaccandovi ai fatti, certo, ma soprattutto mulinando i fatti con chiacchiere, polvere e veleno in un unico gesto offensivo, in uno strano gesto di disprezzo che sembra avere a cuore di colpire qualcuno più che compatire il male e rispettarlo con la chiarezza. Non ho ancora una vita lunga, però ho fatto in tempo a prendermi di tutto, mi è stato dato di tutto, dal corrotto al politicante, dall'impietoso all'integralista, al fascista, al comunista, all'oscurantista, al retrogrado. Mi è stato detto, dato di tutto. E ora questo, amico dei pedofili, appartenente a una specie di associazione pedofila, una specie di concorso esterno, un'accusa enorme. Ma non lo dicono le persone del popolo, lo dicono i giornali, lo titolano tendenziosamente quei giornali come quello femminile italiano Popolare, che grida in copertina: preti pedofili, e adesso lo manderesti tuo figlio all'oratorio? Violenza banale di un giornalismo scorretto e tendenzioso. Ora, che non si può più offendere nessuno, né per il colore della pelle, né per le tendenze sessuali, e giustamente, si possono almeno offendere i cattolici, e con la maggiore infamia. Non lo fa la gente del popolo, se non come battuta, semmai, con la trivialità che però innocua passa via, ma lo suggeriscono, lo ripetono con il sorrisetto sulle labbra coloro che guidano i media, animati da una specie di gusto oscuro per lo sfascio, per il peggio. Come se un problema enorme, vasto e diffuso in ambienti di ogni genere come la pedofilia venisse travisato per orientarne la cattiva ombra solo in un senso, solo contro qualcuno. Insomma, molto amaro, molto amareggiato, molto duro Davide Rondoni in questo editoriale, prima pagina di Avvenire. Amici dei pedofili ci dicono, ma noi stiamo con Cristo. Ora siamo alle segnalazioni conclusive, vediamo un po'. Trovate molto sia sul Sole 24 Ore sia sul Foglio di uno dei più importanti riassetti in atto per quel che riguarda la finanza. Io ne cito qualcosa. Mediobanca vara la lista del leone. Di cosa si tratta? Il Foglio lo spiega così. Mediobanca ha sancito ieri ufficialmente il passaggio del presidente Cesare Geronzi alle generali. Questo è il tema finanziario del giorno e dei prossimi giorni. Nel pomeriggio infatti si è riunito il patto di sindacato per le nuove nomine. Renato Pagliaro andrà alla presidenza di Mediobanca, mentre Angelo Casò andrà ai vertici del patto sostanzialmente. C'è un'analisi finanziaria di quello che cosa vuol dire, insomma, il rinnovo anche in Piazzetta Cuccia. Anche Antonello Olivieri, Mediobanca vara la lista del leone, spiega che cosa si tratta e che cosa cambierà. Insomma, Geronzi al vertice di generali, questo verrà sancito ufficialmente il 24 aprile con l'assemblea della compagnia triestina. C'è anche una battuta che il Sole ha strappato a Antoine Bernheim, cioè colui che per 37 anni è stato in generale e che ora in qualche modo dice viene pensionato, ma che dice, raggiunto al telefono a Parigi, alla sua abitazione: mi piace troppo lavorare, non cerco lavoro ma mi piace lavorare. Insomma, Antoine Bernheim anche un po' amareggiato, ma questo certamente sarà un riassetto importante per quel che riguarda la finanza italiana, anche internazionale, nei prossimi giorni a venire. Chiudo l'ultima citazione, devo fare un po' scriptum, perché ieri abbiamo raccontato della, per me, straordinaria rissa al ristorante tra Fuxas e un difensore di Bertolaso, che ora spiega al Corriere della Sera: così Fuxas mi ha aggredito, sembrava invasato. Luca Ceri, il bullo che ha preso le difese di Bertolaso aggredendoci, così la moglie di Fuxas ha detto di lui. Racconta cosa è successo al ristorante Nuova Fiorentina domenica, quando è arrivato Bertolaso. Fuxas è impazzito, ha cominciato a urlare: pezzo di merda, sto cazzo di Bertolaso ancora va in giro, pezzo di merda. Alzava sempre più la voce. Allora questo Ceri, io che sono amministratore delegato della Cofim, un'impresa di costruzione di Roma, mi sono alzato, ho detto: insomma, ci sono dei bambini. Al che: fascista, squadrista, è partita una formaggera che mi è arrivata addosso, poi è volata anche una bottiglia d'olio. Sembrava un invasato Fuxas. È arrivato poi il nipote di Ceri, 19 anni, 1,90 m, canottaggio nelle braccia, a tranquillizzare Fuxas, e l'archistar ha ripreso a urlare: squadristi, fascisti, siete tutti dei fascisti, rivolta al ristorante. A quel punto è scoppiata la rissa, 2 minuti dopo è arrivata la polizia. Ci fermiamo. Il sondaggio Beppe Grillo, votarlo è un atto di autodistruzione. Votate su radio24.it, ne parleremo alle 8.30. 24 mattino. Allora sono le 8.29 minuti, eccoci qua, 24 mattino. Il nostro sondaggio di oggi è dedicato alla politica, all'analisi del voto. Vi parliamo oggi di Beppe Grillo, del trionfo sicuramente in alcune zone dove si sono presentati con i propri candidati del Movimento 5 Stelle, ispirato a Beppe Grillo. E quello che vi chiediamo è, insomma, se questa vittoria è una vittoria, no, è un'autodistruzione, un atto di autodistruzione, come ha detto il leader del PD Bersani. È il nostro sondaggio che potete votare su radio24.it. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero. radio24.it. Dovete votare bianco o nero, questo nell'home page. Vi chiediamo quello che ha detto ieri Bersani: il votare Beppe Grillo è stato un atto atto di autodistruzione, un accuppio di solvi, l'ha definita Bersani. 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta, bianco nero e radio24.it, oppure 349 238 6666 per i vostri messaggi. Voglio partire da uno dei protagonisti della politica, Davide Bono. Buongiorno. Buongiorno a lei, tutti. Lei è un protagonista un po', ci si è trovato, forse ha scoperto dai giornali che le fanno tipo una trentina di telefonate ogni 5 minuti, questo almeno sul cellulare, almeno dopo l'elezione. Chi è Davide Bono? Io lo dipingo leggendo dai giornali, lei mi corregga se sbaglio. 29 anni, guardia medica, dal settembre 2007 ha deciso di abbandonare ogni mezzo di trasporto che non sia la bicicletta. Da 2 mesi dopo è diventato vegetariano, aderisce ai movimenti No TAV, No Tangenziale Est, Rifiuti Zero, No Grattacielo, No Nucleare, e consigliere regionale in Piemonte, non solo, non da solo, perché con lei è stato eletto anche Fabrizio Biolè, 32 anni, impiegato in una libreria del Movimento 5 Stelle in Piemonte. Dimentico qualcosa, tipo fautore della sconfitta di Mercedes Bresso? No. No, queste sono cose che si dicono quelli del PD. Quindi quando si parla di autodistruzione non capisco innanzitutto perché autodistruzione eventualmente sono che causa del suo mal pianga se stesso, si diceva, no, un tempo, sì, in tempi di saggezza, ma che sono lontani oramai. Quindi... Allora, visto che sono lontani i tempi di saggezza, sai cosa voglio far sentire a lei, a tutti gli ascoltatori e anche ai due ospiti che l'ascoltano e che saluto, che sono Rinaldo Gianola, il vice direttore dell'Unità, buongiorno Gianola, ben ritrovato. E saluto anche Filippo Facci, editorialista del Libero. Facci, buongiorno. Buongiorno. Allora, visto che la saggezza si è persa, secondo lei, senta come Mercedes Bresso ha definito il voto a Beppe Grillo, o meglio, cosa direbbe a Beppe Grillo Mercedes Bresso? Vanno a dire che è un cialtrone, secondo me, nel senso che questa cosa non porta niente a nessuno, ha prodotto un po' più di rabbia. Mando a dire a Beppe Grillo che è un cialtrone. Eccoci qua, Davide Bono. La saggezza, no, la lasciamo per momenti un po' più sereni, forse. Bono. La situazione, sinceramente, stavo un po' esagerando. Comunque, noi andiamo avanti per la nostra strada, siamo contenti del nostro risultato, non guardiamo gli altri. E io rigiro a Mercedes Bresso una battuta, ma sicuramente simpatica, ma anche abbastanza realista, di Beppe Grillo, che l'altro giorno ha scritto sul suo blog: se Mercedes Bresso non si fosse presentata, noi avremmo vinto. Quindi, insomma, la realtà si può vedere da diverse parti, diverse sponde. Senta, che vuol dire che voi non siete un partito di destra, di sinistra? Beppe Grillo dice siamo un partito avanti. Oggi in un'intervista al Fatto dice i partiti sono morti, sono finiti. Sì. Nel senso, innanzitutto, come dice il nostro nome, non siamo un partito nel senso tradizionale del termine, perché non abbiamo una gerarchia dall'alto piramidale, non ci sono teste di partito, non ci sono segretari di partito, quindi tutte le decisioni verranno poi prese comunque il più possibile in modo partecipato, quindi per adesso online, quindi raggiungeremo quello che è il pubblico che ha, ad esempio, una connessione veloce, e quindi non ci possiamo definire esattamente come gli altri, quindi proprio per questo non possiamo fare alleanze con i partiti tradizionali, e soprattutto vogliamo rinnovare i metodi della politica, ancorché anche i contenuti ovviamente, perché si è visto che oramai i partiti sono pesanti oggetti burocratizzati che sono lontanissimi dalle esigenze dei cittadini e non sanno neanche interpretare gli umori dell'elettorato. Ma lei ne parla, come dire, visto che c'è questa gerarchia, non ci sono segretari di partito, non ci sono strutture, come se fossero il diavolo dei partiti queste, no? Cioè non crede che, insomma, ci voglia un'organizzazione come in un'azienda, in un partito, in una, no? Qualcuno che decide, qualcuno poi... Sì. Sì, sicuramente, però non deve essere ormai una cristallizzata in qualche cosa di immutabile nel secolo a secolorum, come sono i partiti che ci sono oramai, dei gerarchi che dietro le file decidono tutto e impediscono a giovani validi, perché io sono convinto che nel PD, nell'IDV, immagino anche nel PDL, nella Lega, ci siano dei giovani validi che potrebbero dare un ricambio generazionale di idee, di contenuti, e invece sono bloccati da queste gerarchie. queste gerarchie. La prima cosa che vuole fare da consigliere regionale, leggo, ridurre gli emolumenti dei consiglieri regionali, credo, no? Sì, ce n'era parlato prima della fine dell'ultima legislatura, quindi sicuramente in termini demagogici adesso dovrebbe essere all'ordine del giorno nella prima seduta, quindi vediamo chi sarà a favore e chi no. Certo, perché voi mettete tutto sul sito, no? Sì. Che fate? Vi presentate con le telecamerine in consiglio? Sì, infatti volevo giusto vedere il regolamento della regione. Se lo studi, perché magari... Se avranno il coraggio di sbattere fuori un consigliere regionale con una webcam, quindi... C'è la privacy, insomma, privacy. Filippo Facci, allora partiamo da qua. Cosa sono un non partito? Lei ieri ha fatto un'analisi anche interessante, cioè cominciamo a considerarli forse un partito, cioè è un dato politico la percentuale conquistata non solo in Piemonte, non solo in Emilia Romagna. Bersani che dice un atto di autodistruzione, come lo dobbiamo qualificare? Non è che una forza politica la si possa definire distruttiva o autodistruttiva a seconda del fatto che dia fastidio alla nostra forza politica, insomma, se faccia danni a noi o ad altri. Io mi riferivo dicendo che è una forza, diciamo, politica, al fatto che ora esistono ufficialmente anche e soprattutto in termini numerici, cioè perché la classe giornalistica ha dato una spropositata attenzione al fenomeno Grillo, forse per recuperare anche la disattenzione precedente, nel periodo del cosiddetto Vaffadei, tutta la retorica dell'antipolitica e via dicendo. Dopodiché si sono completamente disinteressati al meccanismo di formazione del, chiamiamolo, se non si offendono, partito vero e proprio, insomma, che si è fatto, si è creato, hanno fatto le loro liste e via dicendo. Forse il fatto che dapprima i risultati fossero stati molto modesti, o il fatto che nel 2008 Grillo avesse invitato all'astensione non ascoltato, perché ci fu moltissima aderenza al voto, moltissima nel 2008 appunto, ricordiamolo, più dell'80%, ha favorito appunto il dettaglio che intanto però Grillo mettesse in piedi qualcosa che ha raccolto. Ha raccolto moltissimo, abbiamo visto anche dove, è una cosa limitata, sono solo 5 regioni, è molto... Con meccanismi contraddittori per lo più settentrionali, anche questo è interessante perché per esempio io mi aspettavo che in una delle regioni, la Campania, dove è stata fatta la battaglia più dura contro il candidato della sinistra perché appunto reo di tradimento, perché è un certo personaggio e Di Pietro ha osato allearsi con lui e via dicendo, facesse sfracelli, invece lì è andato benissimo Di Pietro, è andato male Grillo. C'è molto da dire. Sì, c'è da dire, vorrei anche Rinaldo Gianola so che è molto critico, no, sul Movimento 5 Stelle, qui c'è il nostro Davide Bono che ascolta, perché Bersani se l'è presa così, un atto di autodistruzione, addirittura Mercedes Bresso forse insomma ancora delusa in maniera cocente la sconfitta, ha detto manda a dire a Grillo che è un cialtrone. Ma insomma bisogna prendere le cose come stanno. Allora chi piglia tanti voti o anche pochi, ma come in questo caso diciamo una lista nuova che si presenta e porta a casa un risultato significativo, merita secondo me il massimo rispetto sotto il profilo politico, e quindi fanno bene chi piglia sul serio questo movimento e chi lo valuta per quello che è o quello che starà diventando o sarà. Detto questo, io insomma, le parole di Bersani e della Bresso mi sembrano un po' fuori luogo, dettate un po' dall'arrabbiatura, dalla delusione della sconfitta, diciamo, in Piemonte, che ci sta. Però bisogna anche tenere presente un fatto: quando si presenta diciamo un movimento come quello di Grillo, lo si definisce dell'antipolitica, dell'arrabbiatura, dell'incazzatura, del mal di pancia popolare e così via, bisogna sempre stare attenti, perché questi fenomeni possono essere sì repentini e sparire dall'oggi al domani, ma possono essere anche questi fenomeni così definiti dell'antipolitica anche molto più profondi e duraturi. Voglio fare solo un esempio: nel 92-93, quando la Lega ottenne il primo grande risultato elettorale sull'onda, diciamo, di Tangentopoli, anche allora, io mi ricordo, stavo a Repubblica, ci furono editorialisti e raffinate penne che ironizzavano sulla presenza della Lega nei consigli regionali, nei comuni, nelle istituzioni, no? Cioè non erano adatti a rappresentare il popolo, non erano adatti a manifestare interessi di parte, seppur consolidati. Invece oggi siamo qui tutti quanti a decifrare cosa vuol dire il successo della la Lega a livello non solo territoriale in tutto il nord, ma a livello nazionale. Ma che poi definire antipolitica? Io credo, Davide Bono, voi vi definite antipolitica perché invece voi dite facciamo la politica vera, quella vicina ai valori delle persone concrete, no? Siete antipolitici o siete politica a vostro modo? Ma assolutamente, io direi, come ha detto lei, noi facciamo politica, chi fa antipolitica probabilmente sono altri. Poi d'altra parte io lascerei, come è giusto che sia, il responso agli elettori su questo. Siamo convinti che il nostro elettorato è molto forte, molto coeso, molto informato. Un'altra cosa, coeso, informato, sta già parlando come un politico, però le chiedo anche, ma davvero lei crede che non avete sottratto la vittoria alla Bresso? Dice molti molti dicono non votavano noi, non votavano neanche per la Bresso. Sulla battuta, se la Bresso non si candidava avremmo vinto noi, vabbè. In alcuni paesi siete arrivati addirittura al 30%, ma lì per la questione della no TAV. Però insomma ci sarà qualcuno che avrà votato voi perché vi considera un po' più oppositori, non so, a Berlusconi rispetto che la Bresso, no? Ma noi non siamo oppositori a nessuno, nel senso, noi vogliamo proporre delle, poi in consiglio regionale da maggio fare delle proposte di buon senso, vedere se passeranno oppure se verrà fatta resistenza solo ideologica, e quindi siamo pronti al dialogo con tutti. Quindi un'idea buona che venga dalla Rifondazione o da Lega Nord è un'idea buona, non siamo per queste contrapposizioni faziose che hanno veramente... D'altronde dice i partiti sono morti, quindi perché stare a fare contrapposizioni con i partiti? Vediamo qualche ascoltatore che ne pensa all'800240024. No, sono caduti tutti, si spero non si siano fatti male. Allora, Filippo Facci, questo dire no, abbiamo sentito Davide Bono, fa parte del no nucleare, no TAV, no tangenziale, no c'è anche il grattacielo di Banca Intesa, insomma un po' tutto. Che tipo di politica è? È una politica, qualcuno dice vabbè, facile fare politica così distruttiva e basta. Ma e poi io non so più neanche che cosa voglia dire fare politica, significa occuparsi di certe cose forse. I no sono come i sì, visti di spalle, cioè io non tolgo assolutamente dignità a chi si cerchi o voglia occuparsi solo di determinati temi. Io mi ricordo che facevo le stesse discussioni da ragazzino quando ero radicale e mi dicevano però i radicali si occupano solo di determinati temi eccetera eccetera. Beh, ognuno fa le campagne che vuole purché non pretenda, ecco, di coprire magari l'universo mondo delle soluzioni politiche quindi da questo punto di vista non ho niente da obiettare. Adesso mi fa un po' sorridere, ma insomma spero lo si possa fare, visto che in fin dei conti stiamo parlando anche di un movimento politico fondato da un comico, che il tono di Davide Bono, nel senso che sono contento, è molto civile questa discussione, però ecco, dire che addirittura insomma non sono oppositore di niente, o perlomeno forse non è stata proprio questa la frase, insomma non corrisponde credo proprio alla verità, così come non penso siano degli agnellini mediamente e siano solamente una sorta di classe informata, quella che normalmente vota Grillo. E un'altra cosa che mi ha fatto molto specie da questo punto di vista a proposito di low profile è sentire questa mattina presto alla radio Di Pietro, che veniva, una cui dichiarazione veniva trasmessa, che diceva sì, però Grillo deve capire che le istituzioni si combattono, sì, ma si devono combattere da dentro le istituzioni, che è una frase che, voglio dire, penso che anche il giovane Forlani abbia pronunciato prima o poi nella sua lunga carriera politica, per cui insomma sono processi molto molto interessanti. Vediamo Laura da Roma che ne pensa. Laura, pronto, buongiorno. Dica. Io sono appunto da Roma, ho votato Bonino, se si fossero presentati i grillini a Roma li avrei votati. E ieri però, sarebbe... cioè da Bonino, ha votato Bonino perché non c'era il grillino. Mi sarebbe piaciuto ieri sentire Bersani prendere in mano il programma e dire ok, su alcune cose possiamo essere d'accordo, su altre no, discutiamone. Vogliamo abolire le province, lo vogliamo in tutta Italia, vogliamo abolire le province. Oh mannaggia, cioè secondo lei il PD adesso dovrebbe iniziare a mettersi a un tavolo con un movimento Beppe Grillo? Perché no? A parte che Grillo ha detto non parlo con... sai che ha detto oggi Grillo rispondendo a Bersani, ha detto con lui non parlo, Bersani è un dipendente di D'Alema e quindi con Bersani io non parlo, insomma, ha detto comunque insomma non credo che il PD si metta a dialogare con Beppe Grillo, credo che sarebbe anche un drammatico errore. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Votare Beppe Grillo è un atto di autodistruzione? Che ne pensate? Per il momento tra l'altro prevalgono i no, su Radio24.it il 67% dice di no. Voglio andare a Carbonia da Enzo, buongiorno. Buongiorno, grazie che per dice? L'opportunità. Io sono d'accordo appunto con Grillo, perché i discorsi che fa Grillo li fa anche Vendola, evidentemente qualcuno non li ascolta, li ha fatti solo in Sardegna. Perché Soru è stato quello che ha proposto i due mandati, il limite dei due mandati, la riduzione delle comunità montane, la riduzione dello stipendio. Cioè, però, e lo hanno ha perso a casa proprio i suoi compagni. In questa che senso l'hanno mandato a casa? Ha perso, ha fatto le elezioni, ha perso contro i Cappellacci. Ha perso perché gli hanno remato contro i suoi compagni. Vabbè. Questa è la realtà. Se non c'è un ricambio generazionale, il PD purtroppo non decollerà. Lei Enzo dice una cosa interessante sulla questione di Vendola, che vorrei perché oggi Vendola fa questa intervista a Repubblica che vorrei sottoporre a Rinaldo Gianola. Allora, Grillo ha detto i partiti sono morti. Sentite Vendola che dice, Grillo lo dice così, i partiti sono morti. Vendola non è solo un governatore, è un poeta, no? Un intellettuale. Come definisce i partiti Vendola in questa intervista ad Antonello Caporale? Aree delimitate da una specie di filo spinato in cui la competizione è sfacciata, ossi di seppia, luoghi pieni di detriti, posti senza anima, i partiti sono fuori dal popolo, a volte contro il popolo, una catena, una rete oligarchica e distante. E poi ancora più avanti, il Partito Democratico, ecco, vede, partito, participio passato, fuggito, sparito, scomparso, il fuggito democratico. Questo Vendola dice del PD. Gianola, allora ha ragione, cioè sono veramente avanti i grillini, i partiti sono morti? No, i partiti non sono affatto morti, perché tant'è che il partito più tradizionale che esiste oggi in Italia, che è la Lega, che è un partito di ispirazione leninista con un capo assoluto, funziona perfettamente ed è addirittura leninista quasi. Ma io direi di sì, proprio se tu guardi come come è strutturata la Lega, c'è un capo, c'è un leader che decide, comanda, e ci sono i territori occupati dalle loro sezioni, dai loro militanti, non ci sono, come dire, non c'è neanche il centralismo democratico, perché comanda solo uno. Ma se Grillo dice siamo come la Lega, cioè sono l'unico partito presente coi banchetti, ho l'impressione che nel movimento dei grillini comandi solo Grillo, che diciamo che è il personaggio che in qualche modo catalizza l'interesse dell'opinione pubblica. Io devo dire che questa cosa del successo dei grillini, per carità, gli faccio tanti complimenti, ma mi sembra uno dei segni del disastro di questo paese, cioè stiamo perdendo pezzi per strada ogni giorno, e sia nei rapporti con le istituzioni, sia nei rapporti tra istituzioni e collettività. E quindi sinceramente, sai, questo movimento, questi atteggiamenti mi sembrano non antipolitici ma pre-politici, cioè dire di no a tutto assomiglia un po' come ai ragazzini, ai bambini che non vogliono fare niente, non vogliono andare a scuola, non vogliono fare i compiti, è un atteggiamento diciamo proprio pre-politico. Poi dopodiché certamente se tu vai in Valle di Susa e dici io non voglio la TAV sarai celebrato da migliaia infatti di voti, ha preso anche il 30%, dici che non vuoi la centrale nucleare sarai celebrato, ma questo è un altro discorso. Allora, Davide Bono, voi siete come i bambini che dicono no a tutto, ci dica che cosa dite di sì, cosa volete in positivo, a parte dire no al nucleare, no alla TAV, no a questo, no a quest'altro. Ma è simpatica questa lettura del nostro programma, che probabilmente molte persone non hanno ancora letto. La dicitura del no, a parte essere appunto ribaltata sempre in quest'ottica negativa, fa parte dei comitati che sono nati sul territorio a difesa del territorio, visto che i politici difendono solo più gli interessi delle lobby, delle multinazionali. Quindi il nostro programma è ricco di sì, quindi girato dall'altra parte, se è un no al TAV vuol dire no allo spreco delle nostre tasse e sì a investimenti sulle tratte dei pendolari, quindi sui treni in orario, quelli di tutti i giorni usati dalle persone per andare al lavoro. Per quanto riguarda l'energia... abbiamo un programma perché sono più belle, cioè più importante è importante uguale, è più importante mandare le persone al lavoro piuttosto che ne so che un'opera inutile che non è dichiarata dall'osservatorio tecnico, insostenibile economicamente, ambientalmente, e dall'Unione Europea però voluta insomma per accorciare gli spazi, aumentare anche insomma la mobilità dall'est all'ovest dell'Europa. Ma vabbè, insomma non è un programma sulla TAV comunque. No, se no ci fermiamo su lì. Sull'energia ad esempio si è dimostrato, comunque se qualcuno mi spiega dove si mettono le scorie nucleari in modo sicuro e come si pensa di investire su un'energia che ci rende comunque dipendenti dall'estero comunque, perché l'uranio non ce n'è, io sarò volentieri. Vabbè, questi però sono i no, sono i motivi del no a queste cose. E ad esempio sull'energia basta mettere in efficienza energetica il parco dell'edilizia residenziale, come vuole anche un'ultima delle leggi fatta dalla regione nel 2009, e noi già potremmo decollare con le energie rinnovabili e dipendere realmente meno dall'estero, ridurre quelli che sono gli oneri in bolletta da parte dei piemontesi e anche degli italiani. Siamo il paese del sole e la Germania ci bagna il naso per quanto riguarda pannelli solari, eolico e altro, e così potremmo andare avanti. Sui rifiuti si può iniziare ad avere anche lì siete no ai termovalorizzatori, perché ovviamente come medico penso di poter dire qualcosa riguardo al loro profilo di pericolosità per la salute e soprattutto sulla pubblicità. È molto dibattuta però la questione, sai, ci sono medici che dicono il contrario. Sì, vediamo vedere i loro sponsor dal punto di vista. sono pagati, sono prezzolati. Senta, ecco, prezzolati. Bono, le devo chiedere questo, fa questo tipo di accuse, insomma, cioè dire che siate così equidistanti un po' dai partiti, insomma, Beppe Grillo passa un giorno sì, un giorno no a insultare o a dire lo psiconano di Berlusconi, di Bersani, non lo so come lo chiama, il fassino, com'è Bersanetor. Che Bersanetor. Ah, Bersanator. Invece Fassino, com'è che lo chiamava? Globulo bianco. Globulo bianco. Ecco, insomma, no, voglio dire, Gianola dice, voi mi sembra che prendiate ordini, insomma, Grillo un po' quello che muove un po', detta la linea, no? In maniera abbastanza... Ma Grillo giustamente, come si è detto, sia comico, faccia satira, non è importante, però giustamente lui fa un altro mestiere. Noi comunque, a parte appunto non voler far sì che la politica sia una professione da cui arricchirsi, ovviamente ci poniamo su un altro registro, su un altro livello, anche perché ci sembra giusto così, non prendiamo in giro nessuno. Quindi lei non è anti-berlusconiano, non è anti-bersaniano? Assolutamente, questi termini gli italiani purtroppo dovrebbero superarli, dovrebbero finalmente votare per quello che ritengono più giusto, leggendo magari le proposte, i programmi, dalla fonte diretta senza avere un intermediario, che sono poi l'informazione che è distorta nel nostro paese, delle televisioni. E basta andare contro, basta. E anche lei è un po' del partito dell'amore. No. Ma insomma, diciamo, distendiamo un po' i termini adesso, perché comunque mi sembra che si sia trasceso da quello che sono poi i limiti della competizione elettorale. In ogni caso, io le faccio ovviamente in bocca al lupo, anche tanta responsabilità, a questo punto lei e il suo collega, ma anche in Consiglio regionale dell'Emilia Romagna hanno preso anche più voti di voi. E, grazie, Davide Bono, per essere stato con noi, consigliere regionale, si può dire così ormai, del Movimento 5 Stelle in Piemonte, così come ringrazio Rinaldo Gianola, vice direttore dell'Unità, e Filippo Facci, editorialista di Libero, per essere stati con noi. Continuate a votare se volete sul sito, sempre per il momento vi con i no, cioè è un atto di autodistruzione votare Beppe Grillo? No, il 68% dice di no. Sara Spreafico è in redazione, la saluto, così come Peter Bescapè in regia. Ci ritroviamo domattina, bianco o nero, e tradio24.it.